Buongiorno in particolare ai numerosi studenti che sono intervenuti, quindi grazie per essere qui, grazie agli insegnanti che mi hanno accompagnati, grazie alle forze dell'ordine, alle istituzioni presenti, un grazie al Comune dell'Aquila che ci ospita per quello che è il primo incontro del Premio Nazionale Paolo Borsellino qui all'Aquila. Nella prima volta che ci siamo affacciati in questo auditorium come premio, abbiamo avuto l'onore di portare qui il monumento che vedete all'ingresso dell'auditorium, che rappresenta i giudici Falcone e Borsellino in quella che è una foto storica e che questo monumento sottolinea ancora di più nelle piazze d'Italia dove è collocato. Il saluto iniziale per questa giornata lo affidiamo al sindaco Pierluigi Biondi. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto agli autori, ma in particolar modo alle ragazze e ragazzi delle nostre scuole, agli insegnanti e tutto il personale che quotidianamente in mezzo a mille difficoltà assolve a questo ruolo primario per la crescita della nostra città, della nostra comunità e della nostra nazione. E sono molto lieto di portare il saluto a quello che è l'avvio formale della 31ª edizione del premio Borsellino, che quest'anno si svolgerà qui all'Aquila. In realtà avevamo un evento lunedì scorso, però lo abbiamo rinviato con la presentazione del libro di Catello Maresca. Sarà un anno molto importante intorno a questo evento, perché vedrà direttamente il coinvolgimento delle giovani generazioni. Qualcuno vorrà chiedersi cosa c'entra il premio Borsellino con la celebrazione del giorno della memoria e perché gli studenti, perché l'esercizio della memoria è un privilegio che dobbiamo imparare a coltivare e che dobbiamo anche imparare a raccontare ai più giovani. E perché la memoria di Borsellino, di Giovanni Falcone o della tragedia immane che scosse l'Europa, quella della Shoah, con il progetto poi messo in atto dello sterminio del popolo ebraico, perché la memoria aiuta a rinforzare l'identità ed aiuta ad acquisire consapevolezza di se stessi e del proprio ruolo nello scorrere degli eventi della storia, che ci vedono comunque costantemente anche protagonisti, spesso inconsapevolmente. E la consapevolezza dell'identità dà quella forza nel sapere chi si è, nel riconoscere anche il diritto dell'altro a sentirsi parte di un'altra storia e di un'altra identità. Io sono convinto che quando ci sono in qualche maniera privazioni della libertà altrui, o in maniera cruenta, tragica, drammatica, come il progetto di eliminazione di un altro popolo, dell'altro da sé, non sia frutto di una forza di un popolo, ma sia il segnale della debolezza di un popolo. E come si può coltivare la memoria e l'identità? Voi avete un privilegio enorme, che è quello di passare parte del vostro tempo a studiare, a conoscere, ad imparare nuove cose. E credo che sia la cosa più importante che un giovane, anche un adulto, ma soprattutto un giovane, possa coltivare. E io l'invito che vi faccio, come se foste miei figli, in realtà i miei sono un po' più piccolini, però cerco anche loro di dare questo insegnamento. Siate sempre curiosi. Leggete, praticate questa cosa eccezionale che è la lettura, cercate di conoscere più cose possibili, formatevi una vostra idea ed una vostra coscienza, perché attraverso la formazione di una propria idea, di una propria coscienza, si capisce anche l'importanza del confronto, e attraverso l'importanza del confronto si capisce anche che esistono altre idee, che esistono altre coscienze, e che talvolta la propria idea e la propria collocazione può essere rimessa in discussione, può essere rivista, può essere mitigata o può essere accentuata. Ed è per questo che io ringrazio soprattutto i vostri insegnanti, perché questo è un periodo contemporaneo molto difficile, non soltanto perché usciamo dalla pandemia, dal Covid. Questa mattina leggevo un articolo molto preoccupante sul Repubblica, sulla generazione post-Covid, sulla irrigidimento rispetto a certi atteggiamenti non in linea con il vivere civile. Li ringrazio soprattutto perché ogni giorno devono stimolare la vostra curiosità, pur in un'epoca in cui siamo sopraffatti dalle verità assolute di internet, dai social, che ci impediscono di non soffermarci a sufficienza sugli argomenti e sui concetti. Forse dovremmo tutti, in primis noi più adulti, recuperare questo rapporto nel dare il giusto tempo alle cose giuste. Ed è per questo che noi siamo impegnati anche come amministrazione a suscitare la riflessione e a suscitare l'approfondimento degli eventi come facciamo oggi, ma anche come abbiamo fatto 2 giorni fa, con la presenza di una grande amica dell'Aquila come Ruth Dureghello, che è la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che è voluta venire a portare di nuovo qui la testimonianza del dolore e della sofferenza del suo popolo. Ed è per questo che altrimenti che senso avrebbe, a distanza di tanti anni, continuare a rimmerdire quegli eventi tragici? Serve proprio a questo, a stimolare il ricordo, la memoria e la consapevolezza. E il fatto che gli orrori non si ripetono solamente se c'è una crescita culturale delle comunità e dei popoli. Ed è per questo che noi abbiamo conferito qualche tempo fa la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Non più tardi di un anno fa abbiamo fatto qui, in accordo con l'ambasciata di Israele, la premiazione dei giusti fra le nazioni. Sapete, non so, lo studierete a scuola, questo grande monumento che esiste in Israele per ricordare tutti coloro che diedero, che si sacrificarono per salvare gli ebrei dallo sterminio, Mario De Nardis e Pancrazio De Laurentiis. Così come abbiamo messo, se passate in Piazza Duomo, troverete nella pavimentazione, troverete un San Pietrino diverso dagli altri, la cosiddetta birra d'inciampo. Ce n'è una proprio in centro e ce n'è una a Roio che ricorda i fratelli Santoponte, e in Piazza Duomo che ricorda della Pergola. Così come, in accordo con la questura, abbiamo posto il cippo alla rotatoria proprio lì davanti alla questura, il cippo intitolato a Giovanni Palatucci, al questore di Fiume. Così come ogni anno continueremo a ricordare, perché questo esercizio non è la stanca ripetizione di un protocollo, di un dovere imposto per legge, ma perché è il senso più profondo che viene assegnato dalla Costituzione a noi che rappresentiamo le istituzioni, a noi che a vario titolo rappresentiamo lo Stato italiano e questa nazione che ha vissuto dei momenti travagliati che non dobbiamo dimenticare. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Si rivolto agli studenti, e quindi approfittiamo anche per un saluto agli studenti che ci seguono collegati in streaming, collegati in diretta attraverso Radio Cerrano Web, attraverso i canali e il sito del Comune dell'Aquila e i canali del Premio Borsellino. Quindi un grazie anche a loro per ascoltare le parole di questa mattina. Adesso la parola a una grande amica del Premio Borsellino, sempre presente in tutto quello che si organizza, è la Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, la dottoressa Fabrizia Francabandera. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per questo invito che mi onora. Il premio Borsellino è una realtà di questa regione bellissima che ormai è da anni fa una meritoria opera di inclusione, di dialogo con le giovani generazioni sui temi della legalità. E quale maggiore violazione della legalità che le leggi razziali? Oggi si ricorda la liberazione ad Auschwitz da parte dell'Armata Rossa. Vedete un po' come la storia cambia, no? Oggi le truppe sovietiche, le truppe russe purtroppo sono impegnate in una guerra, come sappiamo, di aggressione, non certo di liberazione, perché la storia evolve, la storia cambia, cammina sulle nostre spalle, sulle nostre idee. E dobbiamo sempre coltivare il vizio della memoria, come dice qualcuno, per non dimenticare la ragione, da quale parte ci sono le ragioni e da quali i torti. Io faccio il giudice, vi ha detto, sono il presidente della Corte d'Appello, sono molti anni che faccio il giudice, e pensavo di raccontarvi in poche parole come si sono comportati i giudici in un momento di violazione della legalità così drammatico come quello delle leggi razziali in Italia. Cosa accadde in quel 38? Ve lo dico in poche parole, perché sono certa che i vostri insegnanti vi aiuteranno in un percorso più approfondito. Ma dal punto di vista della nostra categoria, cosa accadde? Accadde semplicemente che i giudici non ci furono, non fecero la loro parte. Perché? Perché già dal 25 era stata sciolta l'Associazione Magistrati, perché già un regime dispotico aveva eliminato la voce libera dei giudici liberi, indipendenti, autonomi. Vedete come tornano, poi tutte le cose si combinano. Nell'estate del 38 gli scienziati, non so con quale autonomia di pensiero, prepararono il manifesto della razza. Degli scienziati, voi sapete quanto la scienza ci ha aiutato in questi anni di pandemia, quanto ci siamo rivolti alla scienza, fiduciosi, vaccini sì, vaccini no, terapie, cosa sta accadendo. Anche la scienza perse in quel momento la sua indipendenza di pensiero, la sua capacità di critica e si adeguò ai voleri di chi era al potere. Nell'estate quindi c'è il manifesto della razza. Quella stessa estate ci fu il primo censimento degli ebrei, cioè lo Stato, che fa abitualmente censimenti, per la prima volta chiese ai cittadini italiani, perché erano cittadini italiani, di identificarsi come razza. E subito dopo ci furono le leggi razziali, come sapete, nel novembre del 38. E i giudici che fecero? I giudici, spiace dirlo, stettero zitti. La maggior parte dei giudici italiani fu completamente silente in quel momento. Alcuni andarono a far parte del Tribunale della Razza, spiace dirlo, ma il primo presidente del Tribunale della Razza diventò il primo presidente della Corte Costituzionale italiana. Pensate un po', io anni fa mi sono andata a vedere come fu possibile una cosa del genere, perché come sapete, finita la guerra e ripristinata la democrazia, ci furono processi di epurazione nei confronti di chi si era macchiato di gravi reati o di connivenza con il regime. Ho trovato la motivazione con cui fu archiviato il procedimento di epurazione del giudice Azzariti. E la motivazione fu questa: come presidente del Tribunale della Razza si adoperò per dare falsi certificati di arianizzazione ad alcune famiglie ebree che così furono salvate. Cioè, un altro po' lo si poteva mettere nel giardino dei giusti. In realtà ci fu in quel periodo una compravendita di arianizzazioni fasulle. Italia in questo, spiace veramente dirlo, ma probabilmente salvarono anche qualcuno, ma non è questo il senso. Era il presidente del Tribunale della Razza. Ho portato qui un attimo solo, vi leggo questo, ho trovato, me li ha dati qualche anno fa un collega, due letterine del procuratore generale dell'Aquila. Una è del 4 settembre 39 e allerta tutti i procuratori del distretto, e 39 siamo ormai dopo un anno, a stare attenti, perché mi è arrivata notizia di matrimoni fra persone ebree e persone ariane, poiché la legge lo vieta, invito tutti i procuratori del distretto ad esercitare la massima vigilanza che ciò non accada e a che siano inflitte le giuste sanzioni. E un altro, di poco tempo dopo, questo è del 3 giugno del 40, in cui dice, sapete che come la legge vieta le collaborazioni fra ariani ed ebrei, poiché mi è giunta voce di collaborazione fra avvocati ariani ed avvocati ebrei qui nel distretto abruzzese, vi invito ancora una volta alla massima vigilanza perché ciò non accade più. Gli avvocati ebrei dovevano patrocinare soltanto clienti ebrei. Forse gli avvocati pagarono un prezzo più alto in effetti in quel periodo e i giudici applicavano queste leggi, stavano zitti, non c'è traccia nella storia di prese di posizione, di proteste, non c'è traccia di nulla, c'era il silenzio, l'indifferenza, probabilmente i pochi si sporcarono le mani in prima persona, ma questo non giustifica un'intera categoria, io che faccio parte, mi chiedo come è potuto accadere, che abbiano dimenticato il senso della giurisdizione. La giurisdizione è tutela dei diritti di tutti. In quegli anni anche questo fu perso. E quindi vi invito a studiare, faccio mie le parole del sindaco, la ringrazio per le parole bellissime che ha rivolto a questi ragazzi, studiate e non dimenticate, perché non vorrei, come ha detto la Segre l'altro giorno, spero che sia stato un momento di pessimismo, non vorrei che restassero veramente poche righe in un libro di storia, è qualcosa che deve restare nella nostra coscienza, nella nostra memoria, perché in forme diverse certamente può accadere. Sentivo qualche giorno fa che dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli ultimi 70-80 anni, che noi siamo abituati a considerare anni di pace, perché viviamo in Europa e perché effettivamente siamo vissuti in un periodo di pace, nel mondo ci sono stati 70 milioni di morti di genocidi, piccoli genocidi in giro per il mondo. Qualcuno ogni tanto ci viene dalle cronache, i genocidi di alcune popolazioni in Cina, nel Tibet, c'è stata la Serbia, quindi non siamo mai al sicuro dall'orrore dell'intolleranza, del disprezzo verso gli altri, della differenza tra veniamo prima noi e vengono dopo gli altri, siamo tutti uguali in questo mondo e tutti abbiamo diritto di trovare il nostro posto nel mondo. Studiate e impegnatevi sempre. Buon lavoro. Grazie, dottoressa. Adesso, ragazzi, la parola al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, quindi anche il Ministero della Pubblica Istruzione ha voluto essere presente per trasmettere a voi delle testimonianze più importanti e sentite. Prego il dottor Giuliano Bocchia. Grazie. Ragazzi, io penso che ogni volta che vi prendono, vi portano da qualche parte, vi dobbiate fare la domanda e ve la facciate. Ma che senso ha? Il senso è profondo, perché vedete, in questo cammino che ci è stato invitato dal sindaco e dal presidente, in cui si studia, si va avanti, ci sono delle pause. Così come nelle strade, nelle città, a un certo punto c'è una piazza in cui ci si ferma, si guarda intorno e si fa sintesi. Importante fare sintesi, voi siete ragazzi in generale di quarto e di quinto. Avete un compito fondamentale in questi anni, non so se lo sapete. La pedagogia evolutiva ci dice questo, che in questa età voi elaborate il vostro progetto di vita. Una cosa che vi resterà dentro per tutta la vita. Progetto di vita non è voglio fare questo lavoro o quest'altro. Progetto di vita è un codice valoriale, che vuol dire valore, una cosa che vale. E questi valori, uno vale più dell'altro, uno sta sopra, uno sta sotto, nel nostro cuore. L'ho costruito in questo momento, la natura, o chi per lei, ha predisposto che lo facciate in questa età in cui siete ancora molto, scusate il termine, puri, non contaminati da avidità, da interesse, da... Bene, e quindi si parla di una cosa che si chiama etica. come si mette insieme la criminalità organizzata, Falcone, Borsellino, la Shoah, tutti questi genocidi. Io penso sempre al genocidio degli armeni, di cui non si può parlare in molte nazioni. L'etica, il bene e il male. E su questa cosa, ragazzi, volevo dirvi 5 brevissime cose. Prima cosa, il confine tra bene e male è un confine complesso. Dubitate delle semplificazioni. In questa società estremamente tollerante, quando uno sbaglia viene stigmatizzato. Tutti sbagliamo. Questo non vuol dire che bisogna tollerare il male. Questo vuol dire che il male va nominato, escluso. Ma spesso la lotta tra male e bene è dentro di noi. E il male non è un'entità strana, astratta. Hannah Arendt, quando vide i processi proprio dei gerarchi nazisti, scrisse un libro, un libricino, La banalità del male. Il male è più facile del bene. A volte, per fare il male, basta stare zitti, non parlare, non fare nulla. A volte il bene ci chiama a fare delle cose, pensiamo all'omertà, al premio Borsellino, certe situazioni. Come è stato possibile che queste leggi razziali siano state dalla maggior parte delle persone non considerate? In fondo non mi riguarda quello che sta succedendo in Iran, non ci riguarda quello che succede in Cina, Singapore, non ci riguarda quello che succede. Che posso fare? Già avere un'opinione, già parlarne è importante, che il silenzio spesso è complicità, ragazzi. Bene, allora è importante perché dietro a questo, adesso il professore ci spiegherà bene, ma a livello filosofico il nazismo era sottile, cioè una divisione tra bene e male, netta, gli ariani bene, gli ebrei male e così via. Allora eliminare i malvagi, attenzione che spesso questo succede nelle nostre classi, eliminare il più debole, eliminare il disabile, eliminare quello un po' più sciocco, quello più ingenuo, quello che abita fuori. Si parla tanto di bullismo, spesso il bullismo è questo, no? Fare una società, una piccola società di eletti. Ma quello che voglio dirvi soprattutto è che il male va fermato da vicino. Che vuol dire vicino? Anzitutto dentro di noi. Dentro di noi va fatta una scelta consapevole e profonda per il bene, che spesso è complicato, spesso è più difficile, spesso è più scomodo, ma è il bene. E il bene è contagioso, come il male. E dopo vicino, nel nostro ambiente, tutti ci lamentiamo della guerra in Ucraina, ed è giusto, ma spesso abbiamo una guerra nelle classi, abbiamo una guerra tra scuole, nelle famiglie. Cominciamo da lì e piano piano arginaremo questo male. Io spero che voi, sentendo queste cose, diciate: ma com'è possibile che sia successo? Ecco, facciamo in modo che non succeda mai più. Grazie. Grazie, dottore. Adesso, ragazzi, è il momento di ascoltare delle testimonianze, quella di Primo Levi e della senatrice Liliana Segre. Le ascolteremo da due attori che vi presento, sono Silvia D'Anastasio del Teatro Paolo Grassi di Milano e Fabio Di Pietrantonio dello Stabile di Torino. Grazie mille, siamo davvero onorati oggi di poter leggere queste testimonianze così importanti e farci, attraverso queste parole, portatori di una memoria necessaria in questo momento, come è stato detto, e vi ringrazio per i vostri interventi. Tu quanto vecchio? 40 anni. Questa parte, tu quanti anni hai? 34. Bambina? 11. Il malato? Chi? Tu, malata? Sì, malata, molto malata. Questa parte? Rosa. Anche bambina, questa parte. Tu quanto vecchio? 56 anni. Malato? Sì, malato. Good, allora questa parte? Il mio bagaglio, posso avere il mio bagaglio? Bagaglio dopo, tu questa parte. Ma questo è mio marito. Insieme dopo, tu adesso questa parte, tu non quella posso parte. Lasciare il bambino. Uomini questa parte, donne quelle parte, vecchi, malati, bambini questa parte. Mi chiamo Liliana Segre. Sono nata a Milano nel 1930 e a Milano ho sempre vissuto. La mia famiglia era ebraica agnostica, cioè non frequentavamo il tempio o ambienti ebraici. Io ero una bambina amatissima. Vivevo in una bella casa insieme a mio padre e ai miei nonni paterni, in quanto mia mamma era morta poco dopo la mia nascita. Mi ricordo la sera di fine estate del 1938, quando mio padre cercò di spiegarmi che, siccome eravamo ebrei, non sarei più potuta andare a scuola. Quel momento ha segnato una cesura tra il prima e il dopo. Era difficile per mio padre, con un sorriso commosso, spiegarmi quel fatto. Io, che mi sentivo così uguale a tutte le altre bambine, invece ero considerata diversa. Mi ricordo che non venivo più invitata alle festicciole delle amiche. Alcuni genitori dicevano alle figlie di non invitarmi alle loro feste o a casa loro. Mi ricordo che queste cose che vedevo le leggevo con una maturità inadatta alla mia età. Mi ricordo che non potevamo ascoltare la radio, dovevamo chiedere il permesso per fare tutto. Ho letto poi da adulta tante cose che allora non sapevo, come per esempio il silenzio colpevole di tutto il popolo universitario italiano. Quando i professori dell'università italiana di allora videro mandare via dei professori ebrei per la colpa di essere nati ebrei, invece di scendere in strada a gridare il loro disgusto, nessuno fece sentire la propria voce. Anzi, fu molto interessante prendere posti lasciati liberi. Ci fu questo silenzio assenso che faceva parte del grande trionfo del fascismo di quegli anni. E non importa se è finita la guerra, tutti quelli che incontravo per strada mi venivano a dire: noi eravamo antifascisti, noi abbiamo fatto scappare molti ebrei. Ci fu qualcuno antifascista e qualcuno ha fatto scappare molti ebrei. Ma la maggior parte andava in Piazza Venezia ad applaudire quello che gridava più forte. Mi ricordo che nell'estate del 43 mio padre decise che avremmo dovuto cambiare identità. Comprò una carta d'identità falsa. Mi ricordo lo strazio di una famiglia onesta e normale che si recuperava una carta d'identità falsa. Mi ricordo che dovevo imparare il mio nuovo nome e cognome, le mie nuove generalità, che avrebbero potuto essere la mia salvezza, ma il mio cervello si rifiutava di impararle. Non riuscivo a memorizzare quei dati che non erano miei, che mi facevano nata a Palermo e con un altro cognome. Con quella carta falsa fui ospite di due famiglie cattoliche eroiche che mi nascosero. Ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Avevo 24 anni, poco senno, nessuna esperienza e coltivavo un moderato e astratto senso di ribellione. Non mi era stato facile scegliere la via della montagna e contribuire a mettere in piedi quanto, nella mia opinione e di altri amici di me poco più esperti, avrebbe dovuto diventare una banda partigiana affiliata a Giustizia e Libertà. Tre cinturie della milizia, partite in piena notte, per sorprendere un'altra banda, noi ben più potente e pericolosa, irruppero in una spettrale alba di neve nel nostro rifugio e mi condussero a valle come persona sospetta. Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine del gennaio 1944, gli ebrei italiani nel campo erano 150 circa, ma entro poche settimane il loro numero giunse a oltre 600. Il mattino del 21 si seppe che all'indomani gli ebrei sarebbero partiti tutti. Tutti, nessuna eccezione, anche i bambini. Anche i vecchi, anche i malati, per dove non si sapeva. Prepararsi per 15 giorni di viaggio. Per ognuno che fosse mancato all'appello, 10 sarebbero stati fucilati. E venne la notte. E fu una notte tale che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo. Nessuno dei guardiani, né italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire. Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero ogni oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio e lavarono i bambini e fecero i bagagli. E all'alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile, stesa al vento ad asciugare. E non dimenticarono le fasce, i giocattoli, i cuscini e le 100 piccole cose che se ben sanno e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Lo fareste anche voi altrettanto. Se doveste uccidervi domani con il vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare? Il viaggio durò una settimana. Eravamo sprangati dentro un vagone dove non c'era niente, con un secchio per i nostri bisogni che ben presto si riempì. Non c'era luce, non c'era acqua, c'eravamo solo noi, con la nostra umanità dolente. Io insieme agli altri vissi 3 fasi. La prima fase era la fase del pianto. La seconda fase, quella surreale. Gli uomini pii si riunivano al centro del vagone e pregavano, e lodavano Dio. Era un momento di tensione fortissima che ci teneva uniti, mentre altri uomini ci mandavano a morire. La terza fase è quella del silenzio. Persone coscienti che andavano a morire. Noi lo sentivamo che sarebbe stato così. Non c'era più niente da dire. Gli occhi comunicavano al vicino: sono qui con te, ti voglio bene. Ma non c'era più niente da dire, non c'era più bisogno di parlare. Furono i miei ultimi giorni con mio padre e devo dire che la fase del silenzio è quella che è stata di massima trasmissione tra di noi. Poi a questo silenzio così importante, c'è quel rumore osceno e assordante degli assassini intorno a noi, quando arrivati a quella stazione preparata per noi dai nostri assassini già da anni, Birkenau-Auschwitz, la porta si aprì e con grande violenza fummo tirati tutti fuori. C'era una folla immensa, scendevamo dai vagoni smarriti, non sapevamo cosa fare, perché c'erano le SS con i loro cani, i prigionieri adibiti a dividerci, ad ammucchiare i nostri bagagli, le SS con i loro occhi gelidi e i loro sorrisini. Ci dicevano: state calmi, calmi, adesso vi dobbiamo solo registrare e poi le famiglie saranno riunite. Lasciai per sempre la mano di mio padre e non lo rividi mai più. E fui messa in fila con le altre donne. Certo, non lo sapevo allora che non l'avrei più rivisto, che era un momento così determinante della mia vita. Ed ecco che i nostri assassini perpetrarono il delitto massimo del momento, cioè facevano l'atroce selezione, perché così feroce non la fecero più. I tedeschi fecero l'appello. Domandò il maresciallo: Fisch wie stark? Il caporale saltò di scatto e rispose che i pezzi erano 650 e che tutto era in ordine. Qui ci attendeva il treno e qui ricevemmo i primi colpi. La cosa fu così nuova e insensata che non provammo dolore né nel corpo né nell'anima, soltanto uno stupore profondo. Come si può percuotere un uomo senza collera? I vagoni erano 12 e noi 650. Nel mio vagone eravamo 45 soltanto, ma era un vagone piccolo. Gli sportelli erano stati chiusi subito, ma il treno non si mosse che a sera. Avevamo appreso con sollievo la nostra destinazione. Auschwitz, un nome primo di significato allora per noi. Il treno viaggiava lentamente, con lunghe soste snervanti. Fra le 55 persone del mio vagone, 4 soltanto hanno rivisto le loro case e fu di gran lunga il vagone più fortunato. Soffrivamo per la sete e il freddo. A tutte le fermate chiedevamo acqua a gran voce o almeno un pugno di neve, ma raramente fummo uditi. Venne a un tratto lo scioglimento. La portiera fu aperta con fragore. Ci apparve una vasta banchina illuminata da riflettori. Poco oltre, una fila di autocarri. Poi tutto tacque di nuovo. Poi il dramma della prima baracca. Fummo denudate mentre i soldati passavano sghignazzando. Questi non ci guardavano come donne, perché per le leggi di Norimberga, gli ariani puri non si dovevano accoppiare con donne di razze inferiori. Per cui non ci trattavano come donne, ma come pezzi, delle persone schiave delle quali prendersi gioco. Mettere nudo un uomo davanti a un altro uomo è senz'altro una cosa umiliante e terribile. L'uomo è vestito, magari in divisa, con le armi, l'altro è nudo, inerme, in stato di completa debolezza. Eppure mi pare che la donna, nuda, davanti all'uomo armato, sia sottoposta a un oltraggio ancora maggiore. Ti insegnano a stare sempre composta, a vestire accollata, a provare pudore per il corpo. Poi di colpo, nello stesso giorno in cui ti strappano i tuoi familiari, in cui scendi da un treno della deportazione e arrivi in un posto che non conosci, che non sai nemmeno collocare su una carta geografica, ti ritrovi nuda, insieme ad altri disgraziati che, come te, non capiscono quello che sta succedendo. Non c'è nulla lì intorno che non faccia paura. Siamo scesi. Ci hanno fatto entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata. Che sete che abbiamo. Il debole fruscio nell'acqua dei radiatori ci rende feroci. Sono 4 giorni che non beviamo, eppure c'è un rubinetto con sopra un cartello che dice è proibito bere perché l'acqua è inquinata. Sciocchezze, dico io. A me pare ovvio che il cartello è una beffa. Loro lo sanno che noi vogliamo di sete, ci mettono in una camera e c'è un rubinetto. Io bevo e incito tutti i miei compagni a farlo, ma devo sputare perché l'acqua è tiepida e dolciastra, ha odore di palude. Questo è l'inferno. Ma noi non siamo morti. La porta si è aperta ed entra un SS, sta fumando. Ci guarda senza fretta e chiede, Varken Deutsch. Si fa avanti uno di noi che non ho mai visto, si chiama Flash. Sarà lui il nostro interprete. La SS fa un lungo discorso pagato e l'interprete traduce. Bisogna mettersi in fila per 5, a intervalli di 2 metri fra uomo e uomo. Bisogna spogliarsi e fare un fagotto degli abiti in un certo modo. Gli indumenti di lana da una parte e tutto il resto dall'altra. Togliersi le scarpe, ma far molta attenzione di non farcele rubare. Adesso il secondo atto, ed entrano con violenza 4, con rasoi, pennelli e tosatrici. Hanno pantaloni e giacche a righe, un numero cucito sul petto. Io li guardo. Noi facciamo molte domande, loro invece ci agguantano. Per un momento ci troviamo rasi e tosati, che facce goffe che abbiamo senza capelli. Finalmente si apre un'altra porta. Eccoci tutti chiusi, nudi, tosati, in piedi, coi piedi nell'acqua e in una sala di docce, siamo soli. A poco lo stupore si scioglie e parliamo. A tutti domandano e nessuno risponde. Se siamo in una sala di docce vuol dire che faremo la doccia. Se faremo la doccia è perché non ci ammazzano ancora, allora perché ci fanno stare in piedi e non ci danno da bere, nessuno ci spiega niente e non abbiamo né scarpe né vestiti, ma siamo tutti nudi, coi piedi nell'acqua e fa freddo. Ed è 5 giorni che viaggiamo e non possiamo neppure sederci. E le nostre donne? L'ingegnere mi chiede se penso che anche le nostre donne siano così come siamo noi in questo momento. E dove sono? E se le potremo rivedere? Io rispondo che sì, perché lui è sposato, ma bambina, certo che le rivedremo. Nelle situazioni della vita, la donna, già forse per la sua morfologia di essere umano, è più preparata alla sofferenza fisica, anche se allora veniva educata a considerarsi più debole. Sono convinta che la donna, rispetto all'umiliazione, alla persecuzione, alla perdita della femminilità, fosse più esposta dell'uomo, ma che avesse dei meccanismi di sopravvivenza interiori maggiori, mentre dal punto di vista fisico sicuramente l'uomo aveva più forza. Però ho visto tanti uomini indeboliti, umiliati dalle donne SS che li prendevano a calci, umiliati davanti a altri uomini SS. Li vedevamo essere servi, subire umiliazioni diverse dalle nostre. Io poi guardavo sempre se tra loro ci fosse mio padre. Quindi avevo una specie di diaframma davanti agli occhi. Se appena ne vedevo uno alto, subito guardavo, guardavo, anche se in realtà non mi sono mai illusa di ritrovarlo. E forse proprio nella proiezione del mio amore per mio padre avevo più pena per gli uomini prigionieri. Ho visto quelli che non ce l'avrebbero fatta, quelli che non sarebbero tornati a raccontare, i sommersi. I sommersi erano uguali, uomini e donne. E poi ho visto quelli che si sarebbero salvati, che si sarebbero salvati comunque, anche se fossero stati mandati a gas, perché erano spirituali, perché erano forti, avevano degli ideali, avevano la religione. In questo senso era uguale essere uomo o donna. Improvvisamente l'acqua è scaturita bollente dalle docce. Ma subito dopo irrompono 4, forse sono i barbieri. ci cacciano con urla e spintoni nella camera attigua che è gelida. Qui altra gente urlante ci butta addosso non so che stracci e ci schiaccia in mano un paio di scarpacci a suola di legno. Non abbiamo tempo di comprendere e già ci troviamo all'aperto, sulla neve azzurra, gelida dell'alba, e scalzi e nudi. Con tutto il corredo in mano dobbiamo correre fino all'altra baracca, a un centinaio di metri. Qui c'è concesso vestirci. Quando abbiamo finito, ciascuno è rimasto nel suo angolo e non abbiamo osato levare gli occhi l'uno sull'altro. Eccoci, trasformati nei fantasmi intravisti ieri sera. Io ero una ragazzina di 13 anni. Non avevo nessuna particolarità, anzi semmai ero una ragazzina viziata, cresciuta in una famiglia che mi aveva preservato da tutti i problemi della vita. Ho scoperto quanto la forza che c'è in ognuno di noi sia grandissima. Ed è di questa forza che dobbiamo fare tesoro. Io ero stata fortunata ad essere scelta per diventare operaia, schiava in una fabbrica dove si costruivano munizioni. Durante il tragitto, con le guardie vicine che ci obbligavano a marciare per andare a lavorare, incrociavamo dei ragazzi, tutti i giorni. Erano bei ragazzi, su delle biciclette. Io li guardavo, questi ragazzi, che ci sputavano addosso e ci dicevano delle parolacce che quando iniziai a capire, non volevo credere che dopo averci tolto tutto, l'odio e il fanatismo fossero tali da permettere alle loro menti di comandare al cervello di dire delle parole di quel tipo. Io allora li odiavo profondamente, quei ragazzi, e sentivo nei loro confronti qualcosa di forte, di prepotente, che quasi mi facevo paura. Negli anni mi sono accorta, nella mia maturità di donna di pace, che quel sentimento si è tramutato in pietà, ad averne pena. Quando scoprì che era molto meglio essere stata vittima o figlia di vittima piuttosto che carnefice, fu un momento molto importante nella mia vita. Fu un momento di maturazione psicologica non indifferente nel mio percorso di donna di pace. Allora, invece, li odiavo profondamente. Oggi bisogna scaricare dal vagone un enorme cilindro di ghisa. Il cilindro giace al suolo e Meister Dogalla dice: Olen olen, a noi si svuota il cuore, perché vuol dire portare traversine, e quelle pesano 80 kg, sono all'incirca al limite delle nostre forze. Dopo il primo viaggio sono sordo e quasi cieco per lo sforzo, e commetterei qualsiasi bassezza per sottrarmi al secondo. La traversina è incrostata di neve e fango, e ad ogni passo mi batte contro l'orecchio e la neve mi scivola nel collo. Dopo una cinquantina di passi sono al limite di quanto si suol chiamare la normale sopportazione. Le ginocchia si piegano, la spalla duole e l'equilibrio è in pericolo. Mi mordo profondamente le labbra, perché a noi è noto che procurarsi un piccolo dolore esterno serve come stimolante per mobilitare le estreme riserve di energia. Arrivati al cilindro, scarichiamo a terra la traversina. Io sto impalato, con gli occhi vuoti, la bocca aperta e le braccia a penzoloni, immerso nell'estasi effimera e negativa della cessazione del dolore. E finalmente, come una meteora celeste, sovraumana, impersonale, come un segno divino, la sirena del mezzogiorno esplode ad esaurire le nostre stanchezze e le nostre fami, e di nuovo accadono le solite cose. Tutti abbiamo una fretta animalesca di perforarci i visceri con l'intruglio caldo, ma nessuno vuole essere il primo, perché al primo tocca la reazione più liquida. Come al solito il capo ci ride e ci insulta per la nostra voracità e ci guarda bene da rimescolare la marmitta perché il fondo spetta notoriamente a lui. Poi viene la beatitudine, positiva questa e viscerale, della distensione, del calore del ventre. Una tacita convenzione vuole che nessuno parli. In un minuto tutti dormono, serrati, gomito a gomito, cascando improvvisi in avanti e riprendendosi con un rigirsi del corpo. Di dietro le palpebre appena chiuse, e rompono i sogni con violenza, anche questi sono i soliti. Di essere a casa nostra, in un meraviglioso bagno caldo, di essere a casa nostra, seduti a tavola, di essere a casa nostra e raccontare questo nostro lavorare senza speranza, questo nostro avere sempre fame, questo nostro dormire di schiavi. Man mano che i corpi diventavano degli scheletri, man mano che i crampi allo stomaco si facevano più forti, noi, bambine, immaginavamo di mangiare e facevamo una specie di gara in cui ognuna inventava il pranzo più buono ed era tutto un evocare, a seconda del luogo di provenienza, montagne di spaghetti, di crabi, di crepe, soprattutto i dolci. Nella nostra fantasia creavamo delle torte ricchissime, piramidi di bignè con crema, panna, cioccolato, oppure ci dicevamo, se riusciamo a tornare, io ti invito. Poi arrivavamo in fabbrica e lavoravamo tutto il giorno. Alla sera tornavamo e vedevamo la fiamma con il fumo. 3 volte passai la selezione nell'anno che trascorsi ad Auschwitz. Non era la selezione della stazione, erano delle selezioni annunciate in cui noi sapevamo a che cosa andavamo incontro. Le capocci chiudevano dentro le baracche e poi a gruppi ci portavano nella sala delle docce, tanto cara ai nostri assassini. E lì, tutte nude, in fila indiana, dovevamo attraversare la sala e uscire attraverso un'uscita obbligatoria dove un piccolo tribunale di 3 persone ci guardava come le mucche al mercato. Davanti, dietro, in bocca, se avevamo ancora i denti, se eravamo ancora abili al lavoro. E poi un piccolo gesto gelido che voleva dire vai. Io mi ricordo come attraversavo quella sala. Il cuore mi batteva come un pazzo, io mi dicevo non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. E rimanevo lì, non avevo il coraggio di guardarli in faccia. Mi atteggiavo all'indifferenza. Mi ricordo la prima volta che passai la selezione che il medico, perché uno dei 3 assassini era un medico, mi fermò e con un dito mi toccò la pancia, dove 2 anni prima avevo fatto l'operazione dell'appendicite. E mi disse, io pensai, ecco, adesso perché ho la cicatrice sulla pancia, questo mi manda a morire. E invece lui, tutto sorridente, mostrava ai suoi colleghi assassini la cicatrice, dicendo che questo medico italiano era una bestia, aveva fatto male la cicatrice. Questa ragazza la vedrà sempre, questa cicatrice. Mentre io la faccio sottilissima, e anche se una donna è nuda, questa cicatrice non si vede più. Poi mi fece un segno, con il quale mi indicava che io potevo andare avanti con la mia cicatrice sulla pancia. E avevo fatto quei 2 passi che mi separavano dall'uscita provando una felicità immensa. Non mi importava niente di dov'ero, di cosa mi stava succedendo, dell'orrore di cui facevo parte. Ero viva. Ma una volta fui vigliacca. Quando lavoravo alla fabbrica Union, proprio davanti a me c'era una ragazza francese che si chiamava Janine. Racconto spesso di lei ai ragazzi. Un giorno una macchina le trinciò le dita di una mano. Qualche giorno dopo ci chiamarono per una selezione. Io passo, nuda, felice di essermela scappata. E dietro c'è Janine che nasconde le dita in uno straccio. Sento che viene fermata, che dicono alla prigioniera addetta di prenderle il numero. Ma non mi sono voltata. Sapevo che andava al gas e non mi sono neanche voltata a dire una parola qualsiasi, a salutarla. Sono stata vigliacca, sono andata e mi sono rivestita. Lo racconto ogni volta per liberarmi della mia vigliaccheria, per ricordare Janine. 25 gennaio fu la volta di Somogyi. Era un chimico ungherese sulla 50ina, magro, alto e taciturno. Fu preso da una febbre intensa e forse 5 giorni non aveva detto una parola. Aprì bocca quel giorno e disse con voce ferma: ho una razione di pane sotto il saccone. Dividetela voi 3, io non mangerò più. Non trovammo nulla da dire e per ora non toccammo il pane. Gli si era gonfiata la metà del viso e finché conservò coscienza rimase chiuso in un silenzio aspro. Ma alla sera e per tutta la notte e per 2 giorni senza interruzione il silenzio fu sciolto dal delirio. Non ho mai capito come allora quanto sia laboriosa la morte di un uomo. Tutti si dicevano a vicenda che i russi presto, subito, sarebbero arrivati, tutti loro, proclamavano, tutti ne erano certi, ma nessuno riusciva a farsene serenamente capace. 26 gennaio, noi giacevamo in un mondo di morti, di larve, ma a migliaia di metri sopra di noi, negli squarci fra nuvole grigie, si svolgevano i complicati miracoli dei duelli aerei. Sopra di noi, noi nudi, impotenti, inermi. Uomini del nostro tempo cercavano la reciproca morte coi più raffinati strumenti. Un loro gesto bastava per provocare la distruzione del campo intero, annientare migliaia di uomini, mentre la somma di tutte le nostre energie e volontà non sarebbe bastata a prolungare di un minuto la vita di uno solo di noi. La strabanda cessò a notte e la camera fu di nuovo piena del monologo di Somogi. In piena oscurità mi trovai sveglio di soprassalto. Con l'ultimo sussulto di vita si era buttato a terra dalla cuccetta. Ho udito l'urto delle ginocchia, delle anche, delle spalle e del capo. Non potevo certo portarlo fuori la notte. Non ci restava che riaddormentarci. Eravamo in 56.000 a fare la marcia della morte. Questo l'ho letto poi, perché certo, allora non lo sapevo. Ci facevano camminare soprattutto di notte, perché i civili non dovevano vederci. E la mattina ci scrollavamo di dosso i cadaveri, tutti coperti da un sottile strato di ghiaccio. Erano passati febbraio, marzo e aprile. Quando hanno evacuato l'ultimo campo in cui sono stata, Marco, che era nel nord della Germania, è cominciata una marcia molto diversa dalla marcia della morte. Era un trascinarsi di tutti, perché anche i tedeschi erano alla fine. Era un esercito che andava allo sbando, sotto i nostri occhi. Scioglievano i cani, gettavano le armi. Non posso dire cosa sia stato per me vedere i nazisti che si spogliavano, che si mettevano in mutande, che buttavano via le divise per indossare abiti civili nel tentativo di salvarsi la pelle. Avevo una volta davanti a me il comandante del campo di Marco, un uomo elegantissimo, impeccabile, proprio come ci si immagina una SS. E io mi ricordo che pensavo, ma come? Io sono qui, non sto quasi più in piedi e sto vedendo con i miei occhi, non perché qualcuno me lo racconti, ma proprio con i miei occhi, che questo qua, che fino a un attimo fa mi poteva uccidere in qualunque momento, si spoglia, si mette in mutande, getta via le armi. Sì, ho pensato di chinarmi e prendere quella pistola e sparargli. È stato un attimo. Il 27 gennaio, l'alba, sul pavimento l'infame tumulto di membra stecchite, la cosa Somogi. Ci sono lavori più urgenti, i vivi sono più urgenti, i morti possono attendere. Ci mettemmo al lavoro, come ogni giorno. I russi arrivarono mentre Charles ed io portavamo Somogi poco lontano. Era molto leggero. Rovesciammo la barella sulla neve grigia. Sono passati 4 mesi prima che io riuscissi a tornare a Milano. La liberazione è stata il 1° maggio e io sono tornata ad agosto. Durante quei 4 mesi, io, che pesata dagli inglesi ero 32 kg, sono ingrassata di 40 kg, 10 kg al mese. Nel mese di luglio mi sono tornate le mestruazioni. Sono tornata, ero grossa, gonfia. I miei parenti, quando mi hanno visto, si aspettavano uno scheletro e hanno trovato questa ragazzona selvaggia, brutta, malmessa, goffa. Mentre a una ragazza scheletro avrebbero fatto un certo tipo di accoglienza, di questo personaggio quasi irriconoscibile, così diverso dalla ragazzina per bene che era uscita di casa, non sapevano che farsene. Sono stata ingombrante fin da subito. Ero abituata a stare con i soldati, dicevo parolacce, ero profondamente cambiata e me l'ero cavata da sola. Ho incontrato poi all'ANED le famose operaie della francotosi. Una mi raccontava che, tornata a casa, i genitori l'avevano apostrofata. «Cosa hai fatto te? Cosa hai fatto per cavartela?» Si dava per scontato che la donna fosse andata a letto con tutti per cavarsela. Mentre a nessuno veniva in mente di chiedere a un uomo se si fosse prostituito per cavarsela. Io ero di un'ingenuità tale, nonostante la vita con i soldati, che è stata la mia cugina al ritorno a raccontarmi come funzionava la vita sessuale tra uomo e donna. E poi, quando sono stata presa sotto la tutela dei miei parenti, sono iniziati anni tremendi. Non uscire se non sei accompagnata, vai a lavarti le mani, saluta educatamente, non pensare più alle brutte cose, è solo passato. Io qui non ero più niente. Che cosa avevo a che fare con le mie coetanee, interessate com'erano ai vestiti, ai ragazzi? Io, che sono una persona molto socievole, allora ero, cerco una parola più forte, di solitudine. Era proprio l'unicità della Shoah che si rifletteva in me. Non avevo nessuno che mi amasse così tanto da dire «Non ti capisco, ma ti accetto come sei, ti amo come sei, sono comunque felice che tu sia viva». Avevo tanto lottato per essere viva, per tornare, per non essere uccisa, per sperare. Tutte le mie difese erano cadute e niente era come me lo immaginavo. Non avevo la casa, i miei oggetti, non avevo più quelle persone di cui non posso neanche parlare, per quanto la sofferenza è ancora molto acuta dopo tanti anni. Sì, ci sono delle cose che ancora adesso mi fanno molta impressione, come il fuoco, la ciminiera, il treno merci, e poi il buio e certi odori. Però nel complesso sono una donna normale, che lavora, che ha la sua casa, una famiglia, una donna di pace. Considerate se questo è un uomo. Considerate se questa è una donna. Che lavora nel fango. Senza capelli e senza nome. Che non conosce pace. Senza più la forza di ricordare. Che lotta per mezzo pane. Vuoti gli occhi e freddo il grembo. Che muore per un sì o per un no. Come una rana d'inverno. Grazie. Grazie a Silvia Anastasio del Teatro Paolo Grassi di Milano e grazie a Fabio Di Piantonio dello Stabile di Torino. Grazie per questo momento molto emozionante e forte. Adesso passiamo la parola a un avvocato e storico che è il dottor Luigi Guerrieri e voglio anticiparlo con le parole di Primo Levi. Perché se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre. Grazie, grazie. Davvero a livello così emozionale è difficile prendere la parola dopo un momento così intenso, così suggestivo. E allora non posso far altro che riprendere appunto da Primo Levi come è stato possibile e far sì che questo non si ripeta. Naturalmente nel corso della storia, diceva bene prima il sindaco, la presidente, certo non soltanto gli ebrei sono stati vittime di ingiuste persecuzioni, di genocidi. Noi oggi ricordiamo gli ebrei perché è la persecuzione che più tocca la nostra cattiva coscienza di europei occidentali e di italiani, perché purtroppo anche gli italiani hanno avuto una parte, e nemmeno tanto secondaria, nella vicenda della Shoah. E dunque ci dovremmo interrogare del perché proprio gli ebrei, perché nel contesto delle nostre società, storicamente da almeno 2000 anni, gli ebrei hanno costituito una sorta di capro espiatorio rispetto ai nostri fallimenti, rispetto alle difficoltà delle varie forme di civiltà che sono succedute nelle nostre nazioni, nei nostri stati. E probabilmente la ragione va rinvenuta alla radice, cioè dobbiamo partire un po' indietro, ma ecco, sono stato chiamato un po' in qualità indebitamente storico, per carità, ma così di appassionato. Dobbiamo tornare alla Palestina del primo secolo d.C., quindi più o meno dell'età in cui visse Gesù, insomma, sono noti i fatti narrati nei Vangeli. Vi ricorderete nei Vangeli tutta la vicenda di Gesù si sviluppa nella Palestina occupata dai Romani, no? E quindi c'era il Sinedrio che era l'autorità ebraica, ma poi c'era il procuratore di Giudea che era Ponzio Pilato e quindi l'esercito di occupazione e quindi il potere era diviso tra gli occupatori romani e le autorità ebraiche che comunque i Romani in quella fase perlomeno dell'occupazione avevano lasciato. E vi ricorderete che c'è un personaggio, no? Barabba, che viene posto davanti al popolo ebraico da Ponzio Pilato e viene posta una celeberrima alternativa, no? Chi volete che io liberi? Gesù o Barabba? E chi era Barabba? Barabba era uno zelota. Uno zelota era un partigiano, lo definiremmo oggi, per l'indipendenza della Palestina dall'occupazione romana. Quindi era un prigioniero politico, oggi definiremo un patriota, e che appunto faceva parte di un movimento che già all'epoca era molto forte, che negli anni successivi alle vicende di Gesù crebbe di forza e di intensità, fino a che si creò un insanabile contrasto tra le truppe di occupazione romana e la resistenza israelita, E fino a che l'imperatore Tito nell'80 d.C., dopo aver annientato l'esercito israeliano a Masada, l'esercito israelita forse sarebbe più opportuno dire, a Masada distrugge il Tempio. Il Tempio per gli ebrei tuttora era la sede del Sancta Sanctorum, cioè loro hanno custodite le tavole della legge, il luogo più sacro dell'identità e della religione ebraica. Viene distrutto, ne rimane solo una parte di muro, che è il famoso muro del pianto, che ancora oggi gli ebrei venerano come appunto il monumento più significativo della loro religione, e quindi inizia la diaspora, cioè si perde il popolo israelita, che fino a quel momento, dai tempi leggendari di Mosè, si era insediato in Palestina, si disperde per il mondo. Parte si disperde nel Medio Oriente e parte giunge in Europa. L'Europa all'epoca dominata da Roma, l'impero romano. E si va a insediare più o meno una parte, un gruppo nella parte dell'attuale Europa orientale, un altro gruppo invece si insedia nell'attuale Spagna. E da lì poi nel Medioevo nascerà la distinzione che abbiamo ancora oggi tra ebrei sefarditi, quelli spagnoli, e ebrei aschenaziti. Aschenazi in ebraico vuol dire Germania, quindi quelli posti nell'Europa orientale, quindi più o meno nei territori della Germania o comunque tedescofi. E quindi cosa accade? Questa diaspora poi si raggruma per piccole comunità in tutta Europa e si iniziano a costituire queste comunità che erano l'ambito di una Europa che nel frattempo era diventata cristiana, e diventano delle comunità piccole e riconoscibili. Riconoscibili perché professavano una religione appunto diversa da quella del resto della società. Non solo, ma anche in ragione dei precetti religiosi, della loro tradizione, iniziano anche a praticare mestieri che gli europei non praticavano. Uno su tutti, che poi diventa un luogo comune, ancora oggi difficile da vincere, no? Quello del banchiere, cioè del prestatore di soldi e interessi. I cristiani non potevano esercitare il credito, perché il precetto evangelico non date mutuum glielo proibiva, e quindi questo lavoro proibito ai cristiani diventò appannaggio degli ebrei, di molte famiglie ebraiche, ma non facevano naturalmente solo quello. Però ecco questo fatto per cui si creano delle piccole comunità che vivevano un elemento di diversità molto forte rispetto al resto della società, cioè professavano un'altra religione, ma non professavano un'altra religione qualunque, professavano la religione, ed era un'espressione di un popolo che per la Vulgata cristiana era stato il popolo che aveva ucciso Dio. Quindi, nella visione medioevale che ci siamo portati fino ad oggi, e che la Chiesa Cattolica peraltro ha perduto, ha dismesso definitivamente solo pochi decenni fa, ma fino a 70 anni fa c'erano ancora documenti ufficiali del Magistero che parlavano dei perfidi ebrei, perfidi perché non avevano riconosciuto Cristo e lo avevano condannato a morte. E quindi erano rei di deicidio, cioè del crimine più immondo, no? che una comunità potesse commettere. Quindi, ripetiamo, loro erano una comunità piccola, erano divisi in piccole comunità, accusati di deicidio, e svolgevano in prevalenza un'attività che era quella del prestito del denaro, che naturalmente era mal vista dal resto della popolazione, perché svolgevano la funzione dei creditori, quindi coloro verso i quali si avevano dei debiti, quindi occorreva poi onorare. E quindi questa situazione fece sì che poi nel Medioevo queste comunità ebraiche venissero sempre più ghettizzate. Che cosa vuol dire ghetto? Ghetto è una parola del dialetto veneziano, che vuol dire chiuso, perché uno dei primi ghetti nacque appunto nella Repubblica Serenissima. Cioè nelle città europee gli ebrei vennero confinati in quartieri speciali controllati dalla pubblica pubblica autorità, generalmente chiusi, fisicamente chiusi da cancelli a una certa ora dopo il tramonto, riaperti la mattina, e ai sudditi, perché insomma non si poteva ancora parlare di cittadini, ma insomma ai sudditi di religione ebraica, veniva disposta anche una specifica disciplina per quanto riguarda l'esercizio di quelli che oggi definiremmo diritti civili o libertà politiche. Non c'erano ancora queste nozioni, ma insomma la loro capacità giuridica era limitata, non potevano svolgere certe professioni, non potevano accedere a determinati uffici pubblici, dovevano pagare tributi speciali e così via. Ecco, se pensate al ghetto di Roma, no? Il ghetto di Roma è uno dei ghetti più antichi di tutta Europa. La presenza ebraica a Roma è attestata addirittura al primo o secondo secolo avanti Cristo. Eppure in epoca medievale, quindi quando già il potere temporale della Chiesa, il ghetto di Roma venne minutamente disciplinato. Tutte le persone di religione ebraica dovevano rientrare la sera entro una certa ora, dovevano rendere un particolare omaggio al Papa regnante ogni anno attraverso il pagamento di determinati tributi, oboli e quello che volete. E questa situazione, perlomeno limitando il discorso solo all'Italia, rimane più o meno così, quindi con una comunità ebraica che è tollerata, ecco se vogliamo, se il termine è più appropriato, che è tollerata, fino al 1848, che è l'anno della promulgazione, della concessione dello Statuto Albertino, e per la prima volta in un testo di rango statutario costituzionale viene riconosciuta la pari dignità civile di ogni cittadino, perlomeno per quanto riguarda, ripeto, la storia giuridica italiana. Lo Statuto Albertino esordiva dicendo, affermando che la religione cattolica è l'unica religione dello Stato, però poi di fatto diceva anche che gli altri culti sono ammessi sulla base delle leggi, ma tuttavia si arriva alla libertà religiosa. A seguito dell'approvazione della concessione dello Statuto Albertino, uno specifico editto, sempre di Re Carlo Alberto, e poi una legge del Regno di Sardegna, sempre nel 1848, finalmente riconoscono la piena cittadinanza ai cittadini, ai sudditi di religione ebraica. Quindi nel Regno di Sardegna, già nel 1848, i cittadini di religione ebraica sono pienamente parificati a tutti gli altri sudditi. Questa legislazione, poi con il processo unitario, quindi con 1859, 60, 61, fino al 1870, la presa di Roma, si estende poi progressivamente a tutta Italia, e quindi finalmente anche nelle altre regioni italiane i sudditi di religione ebraica diventano cittadini di pieno diritto. E questa cosa ha un particolare valore anche simbolico a Roma, perché appunto Roma, sede del papato, quando i piemontesi entrano da Porta Pia, uno dei primi atti simbolici che fanno è quello di aprire il ghetto di Roma. Quindi il ghetto viene aperto e non verrà più chiuso. Quindi gli ebrei vengono fisicamente liberati. E poi anche come gesto provocatorio viene realizzata la sinagoga nuova, che è quella che vediamo lì lungo il Trastevere, che non a caso ha una cupola, non perché le sinagoghe avessero questo particolare insomma, forma architettonica, ma proprio come gesto anche di rivalsa, di ripicca verso il vicino Papa, che si era nel frattempo chiuso sdegnosamente a San Pietro, per uscirne poi solo nel 1929. E ad ogni modo, finalmente in Italia inizia anche una vita civile per i cittadini, i sudditi di religione ebraica. Quindi gli ebrei finalmente iniziano a partecipare alla vita pubblica di religione di stirpe ebraica. Era il presidente dell'epoca dell'Italia liberale, Sidney Sonnino, ad esempio, così come era anche di religione ebraica uno dei più importanti sindaci di Roma dopo l'Unità d'Italia, che era Ernesto Nathan. Tra l'altro è stato anche vicino, sodale di Mazzini, fu l'inventore dei servizi pubblici come li conosciamo oggi, che fanno capo appunto al comune, l'erogazione che sono dell'elettricità e del sistema di riscaldamento, lo inventò lui e Roma fu dotata per l'epoca di un apparato di servizi, un apparato strumentale davvero insomma, in linea con i tempi e con le capitali, le altre capitali d'Europa. E quindi gli ebrei nel corso dell'Italia liberale partecipano alla vita pubblica, economica e culturale, raggiungono importantissime posizioni all'interno delle università, all'interno della ricerca scientifica, nell'ambito, abbiamo detto, della vita pubblica e così via. E si arriva alla Prima Guerra Mondiale. Alla Prima Guerra Mondiale, lo sapete bene, adesso qui non è il caso di ripercorrere tutta quella vicenda, ma insomma, usciamo malmessi, sia pur vincitori dal conflitto, ma in una situazione di tensione economica e sociale molto forte. Il malcontento è tanto, anche perché rispetto allo sforzo bellico, le concessioni territoriali che poi il tavolo della pace aveva dato all'Italia sono state ben poca cosa rispetto alle aspettative, e quindi inizia qui un primo moto di nuovo antisemitismo, cioè quindi tutta questa, ancora una volta si riattiva il meccanismo del capro espiatorio, e quindi tutta la frustrazione accumulata per quella che veniva chiamata la vittoria mutilata, per le condizioni difficoltose in ambito sociale ed economico, qualcuno in ambiente nazionalista inizia a individuare nell'ebreo il responsabile di questa situazione. Questo però parate non è che avviene solo in Italia o solo in Germania. Purtroppo è un fenomeno che avviene dalla Russia zarista fino alla Spagna e quindi coinvolge purtroppo tutta Europa. Si arriva al fascismo, però guardate, il fascismo all'inizio, agli esordi, la questione ebraica non la tratta, sì c'erano già degli ambienti estrenazionalisti, estremisti, che avevano iniziato una propaganda anti-ebraica, però trovavano più sponda negli ambienti reazionari cattolici che non nel nascente partito fascista. Inizialmente, per così dire, la questione ebraica col fascismo parte in sordina. Non solo, ma anche autorevoli esponenti gerarchici del primo fascismo sono addirittura di origine ebraica, quindi non c'era ancora un veto o una sistematica persecuzione. Non solo, ma quando nel 1932-33 in Germania si afferma il nazismo, che invece fin da subito parte con una forte polemica anti-ebraica, Mussolini, un celebre discorso credo ad Ancona, a Taranto, adesso non ricordo, ma irride, il suo famoso discorso, irride il razzismo tedesco. Quando è che c'è la svolta in Italia? Quando, dopo l'impresa abissina ed eritrea, l'Italia ha velleità neoimperiali, viene solennemente proclamato l'impero dopo la presa di Addis Abeba, e a livello però politico internazionale ci ritroviamo del tutto isolati, perché quella che all'epoca era chiamata la Società delle Nazioni, comunque le principali potenze europee, Inghilterra in testa e Francia, varano una serie di sanzioni in ragione della nostra occupazione di quei territori che avevano legittimo governo, capo di Stato e quant'altro. E quindi cosa avviene? Ci ritroviamo isolati. E proprio in questo momento, quindi quelle che già erano le affinità elettive tra il regime nazista e quello fascista hanno modo di svilupparsi pienamente. Salda in una unione politico-militare che poi sarà nota come patto d'acciaio, che avrà anche una sponda nel Giappone, nell'Oceano Pacifico, e quindi in questa fase il fascismo pensa bene di mutuare le dottrine razziste e antisemite della Germania nazista. Il manifesto degli scienziati razzisti, a cui prima faceva riferimento la Presidente, altro non è che la traduzione in italiano di un analogo, di un analogo manifesto pubblicato in Germania anni prima e nel quale si teorizzava la famosa superiorità della razza ariana, che naturalmente a leggerlo oggi viene una cosa grottesca nella sua tragicità e anche comica, perché è talmente sconclusionata, talmente al di fuori di ogni principio anche scientifico elementare, che viene quasi da ridere. Ma quello che davvero è inquietante, su cui vi invito a riflettere, è che anche di fronte a un testo così grottesco, vuoi per spirito di emulazione, vuoi per spirito di conformismo, per timore di essere visti al di fuori dal coro, misero la firma su quel documento alcuni tra i principali uomini dell'Accademia e della cultura italiana degli anni 30. Un fenomeno di omologazione culturale che davvero dovrebbe far riflettere, che chiaramente non è che coinvolge solo il fascismo o altro, ma analoghi fenomeni si sono registrati in quegli anni nei regimi che già stavano sotto lo scacco della dittatura comunista. Anni dopo, a me piace sempre fare questo parallelo, che forse è un po' improprio, ma che però secondo me denuncia sempre lo stesso vizio, che è quello della omologazione anche di certa cultura e di certa intelligenza. Penso al documento che fu scritto negli anni 70 contro il commissario Calabresi. Il commissario Calabresi, senza alcuna prova, venne descritto dalla stampa all'epoca dell'estrema sinistra e non solo, venne indicato come il responsabile, come se fosse già stato celebrato un processo della morte dell'anarchico Minelli, e sotto questo documento farneticante, che poi portò all'uccisione del commissario Calabresi, misero la firma 900 tra le migliori firme della cultura italiana, tra cui credo Umberto Eco, Paolo, molti poi si sono vergognati, hanno fatto pubblica ammenda, ma per dire di come la situazione culturale generale in un certo momento può indurre anche persone di sicura intelligenza, di provata capacità, che rappresenta il meglio della società in quel momento, le può indurre a dare il proprio assenso, mettere la propria firma, comunque insomma a concordare con idee che poi, viste col senno del poi, erano già palesemente assurdi, sarebbero state già da censurare, insomma, nel momento in cui venivano formulate. E così avvenne che sotto questo manifesto della razza mettono la loro firma alcune, ripeto, tra le migliori personalità della cultura italiana del tempo. Poi, lo ricordava bene la Presidente, nel novembre, quindi nell'autunno successivo alla pubblicazione del manifesto degli scienziati razzisti, vennero promulgate le prime leggi razziali, le quali peraltro sono articolate su più documenti. Noi abbiamo le leggi razziali, vanno la prima, che sia il Regio Decreto 1721 del 38, che è del novembre del 38, che appunto era significativamente intitolata legge a difesa della razza. E dopo però si sviluppano fino al 1945 anche poi nei territori che erano occupati dalla Repubblica Sociale Italiana, quindi dai tedeschi, e quindi si articolano su più provvedimenti normativi e amministrativi generali che colpiscono i cittadini di religione ebraica sotto diversi profili. E vediamo quali. Vi ripeto, fino a quel momento i sudditi di religione ebraica erano pienamente parificati per quanto riguarda il godimento dei diritti civili e politici a tutti gli altri cittadini. Improvvisamente avviene il censimento, a cui faceva prima riferimento la Presidente, degli ebrei, e pochi mesi dopo iniziano tutta una serie di limitazioni. La prima limitazione è quella di contrarre matrimoni, quindi cittadini di razza ariana non potevano più contrarre matrimonio con cittadini di razza ebraica. Dopo avvengono le limitazioni patrimoniali, per cui cittadini di religione ebraica non potevano essere intestatari di beni mobili o immobili al di sopra di un certo valore. Non solo, vennero espulsi da tutti i ruoli pubblici e quindi all'interno delle pubbliche amministrazioni tutti i cittadini di religione ebraica, quindi vennero mandati fuori dalle università tutti i professori, vennero mandati fuori tutti gli studenti di religione ebraica, e per gli studenti invece dei licei, quindi della scuola secondaria, vennero istituite delle apposite scuole israelitiche sotto il controllo del Ministero dell'Interno. Venne posto il divieto per i cittadini di religione ebraica di avere al proprio servizio dei cittadini ariani. Venne ripristinato un controllo molto stringente sulle comunità israeliti. Le comunità israelitiche erano comunque delle costituite in forma di associazioni, più o meno ogni comunità storica dell'ebraismo italiano, so, Ferrara, Roma, Milano, Torino, ne aveva una, e quindi le comunità israelitiche vennero poste anche lì sotto il diretto controllo della direzione degli affari di culto del Ministero dell'Interno, e quindi vennero svuotati di ogni potere. Ora, questa serie di limitazioni paradossalmente, certo, colpì molto la comunità ebraica, però paradossalmente salvò anche migliaia di ebrei italiani dallo sterminio che sarebbe avvenuto di lì a pochi anni, perché molte famiglie, costrette dalla requisizione dei beni, dalla impossibilità di poter svolgere il proprio lavoro e da tutte queste serie di restrizioni, impossibilità di vivere in Italia, presero la via dell'emigrazione. Molti raggiunsero l'Argentina, gli Stati Uniti d'America e altre mete dove trovarono ospitalità presso altre comunità ebraiche, fortunatamente ancora libere. E quelli che rimasero poi, purtroppo, lo sappiamo, di lì a poco, quindi durante la occupazione tedesca con la collaborazione fascista, subì la Shoah, quindi molti furono avviati nei campi di concentramento. Rimane tristemente celebre il 16 ottobre del 1943, quando viene fatto il sacco del ghetto di Roma, e quindi i tedeschi prendono 1000 e più ebrei romani, li avviano ai campi di concentramento e ne torneranno solo 35. E però guardate bene che tutte queste azioni, l'episodio del 16 ottobre del 43, lo stesso episodio della Segre, avvenne sempre con la collaborazione degli apparati di polizia italiani, apparati fascisti. La stessa senatrice Segre ricorda che fu avviata al campo di concentramento dalla stazione centrale di Milano, fu fatta salire su questi carri ferroviari e fu avviata da un reparto della RSI, quali erano perfettamente consapevoli della sorte che attendeva queste persone. Così come nell'episodio delle fosse ardiatine, quando in risposta all'attentato di Via Rasella i tedeschi uccisero 335 romani, anche lì l'elenco degli ebrei da prelevare fu predisposto dal questore Caruso, che era il responsabile dell'ordine pubblico italiano della capitale all'epoca. Poi si dice, ma com'è che poi queste persone, sì, è vero che vi furono delle epurazioni, però sarebbe anche il caso di ricordare molto responsabilmente il ministro, il primo governo De Gasperi, il ministro della giustizia Togliatti, firmò anche un'amnistia generale per evitare che si spargesse eccessivo sangue poi nell'opera, per così dire, di bonifica dell'amministrazione statale con l'avvento poi del nuovo regime repubblicano. Però almeno Togliatti si firmò questa amnistia, ma fu anche quello che promosse come suo capo di gabinetto Gaetano Azzariti. Gaetano Azzariti, che era il giudice a cui prima faceva riferimento la Presidente, era stato vergognosamente, aveva accettato di presiedere la Commissione per la razza, istituita da una delle leggi razziali a cui abbiamo fatto prima riferimento. Prima diventò capo di gabinetto del ministro della giustizia, che era appunto Togliatti, e più tardi, nel 1957, addirittura diventò primo presidente della Corte Costituzionale, quindi neoistituito, forse istituito nel 53, ma insomma uno dei primi presidenti, o il primo o il secondo, adesso non ricordo. E quindi, badate, le classi, cioè spesso questi fenomeni avvengono non perché indotti dalla rabbia popolare o perché frutto di un fenomeno irrazionale, ma perché spesso c'è l'avallo delle classi dirigenti, cioè di coloro che nell'ambito di una società dovrebbero invece avere sempre più vigile la guardia perché certi fenomeni non avvengano. E per quanto riguarda poi gli ebrei, la cosa singolare che nonostante sia avvenuto quello che è avvenuto, ancora oggi, al primo accenno di difficoltà di ordine economico, sociale o politico all'interno delle nostre società, c'è sempre una voce, magari flebile, magari oggi più controllata, ma c'è sempre qualcuno che ripropone la questione ebraica. Cioè, di fronte a quello che accade oggi, mille problemi che possono essere la crisi energetica, la guerra in Ucraina o quello che volete, qualcuno mette davanti la figura di Soros. Perché? Chi è Soros? Soros è un uomo d'affari, una brava, una cattiva persona, non sta a medire, non lo so, non voglio entrare nel merito, ma è, come tantissimi altri, un uomo d'affari internazionale, è certamente un uomo molto potente, ma per il fatto di avere origine ebraica viene dipinto col naso adunco, con il cappello grande e come un sordido tetro cospiratore dietro le quinte che in qualche modo determinerebbe silenziosamente i destini, la sostituzione etnica, i destini internazionali. Ecco, qualcuno ancora, nonostante sia accaduto quello che è accaduto, qualcuno ancora oggi tira fuori queste fesserie. E non solo, chiaramente non solo riferimento a Soros. Quindi, di qui ecco le parole di Primo Levi da cui siamo partiti, dobbiamo essere sempre vigili perché il meccanismo del capro espiatorio e quindi dell'identificare qualcuno come la fonte di ogni male per scaricare su di esso tutte le nostre frustrazioni è un meccanismo sempre latente, è un meccanismo sempre replicabile, certo. Non soltanto nei confronti degli ebrei, ci mancherebbe, per carità. Però gli ebrei, ecco, rimanendo sempre una minoranza riconoscibile in seno alle nostre società, mantengono le caratteristiche peculiari sempre per essere identificati come i capri espiatori. Questo ci dovrebbe far riflettere. Poi, ecco, certo, il discorso del razzismo, il discorso della persecuzione, certo non si esaurisce solo nei confronti degli ebrei, degli israeliani, le persone in qualche modo connesse alla religione ebraica, né bisogna stare attenti a non demonizzare eccessivamente il popolo tedesco, il quale sicuramente si rese responsabile di crimini orrendi, ma attenzione, all'epoca il razzismo non era certo una esclusiva, una prerogativa soltanto dei tedeschi o degli italiani. L'idea della razza, che nasce più o meno con dottrine pseudoscientifiche nel corso dell'Ottocento, era proprio anche del mondo anglosassone, dove già c'era un regime politico di tipo liberale, molto più liberale del nostro, della Francia, le quali avevano una legislazione coloniale che distingueva nettamente anche in ordine al godimento dei diritti civili e politici tra cittadini metropolitani, cioè cittadini della madrepatria, e cittadini appunto coloniali, poneva limiti alle persone di colore, quindi attenzione, anche perché lì si aveva la pretesa di definire le differenze esteriori umane in senso biologico, in realtà la biologia non era ancora nata, cioè lì non c'era stata ancora la scoperta del DNA che proverà poi per tabulas vedremo oggi che il 99,9 periodico delle caratteristiche umane è identico in ciascun essere umano, no? E quindi ciò che si differenzia sono solo delle caratteristiche esteriori che magari possono colpire l'occhio, ma che nella sostanza in realtà vogliono dire assolutamente nulla. E invece all'epoca questo non si sapeva e si elaborò tutta una teoria pseudoscientifica, ripeto, tutto l'Occidente, una teoria pseudoscientifica sulla differenza razziale. E questo termine razza, guardate che era talmente radicato che l'eco di questo termine c'è anche nella nostra Costituzione. Cioè l'articolo 3, la norma sulla Grundnorm, no? Direbbero i tedeschi, la norma fondamentale del nostro testo costituzionale, parla di differenze di razza. Oggi non verrebbe mai utilizzato da un legislatore, costituente o meno, il termine razza. Ma tanto era radicato nella cultura europea questo termine, quindi questa distinzione degli uomini per appartenenza etnica, che addirittura nella Costituzione democratica ancora c'è un eco, no? La razza. Quindi, ripeto, il razzismo non fu prerogativa soltanto dei tedeschi, anche lì i massacri su base etnica, culturale, religiosa, non furono solo la prerogativa dei tedeschi, però certo la Shoah per le sue dimensioni, perché riguardò la soppressione di più o meno 6 milioni di persone per il brevissimo tempo in cui fu realizzata, perché la Endlich-Lösung, cioè la soluzione finale programmata dai vertici nazisti, nasce all'inizio della guerra, 41-42, e in soli 3, in nemmeno 3 anni, riesce a sopprimere 6 milioni di persone. Quindi, sia per la scientificità, velo rapidità, e anche, ahimè, purtroppo, macabra efficacia, rimane sicuramente un fenomeno, un episodio drammaticamente peculiare che deve essere sempre ricordato senza aver timore, appunto, di suscitare lo scandalo, lo sdegno e l'emozione, perché senza queste cose davvero rischieremo sempre di ricadere negli stessi errori. Grazie avvocato. Siamo giunti a conclusione di questa giornata importante. Voglio ringraziare gli intervenuti, grazie al sindaco che deve lasciarci per un impegno istituzionale, ma grazie per l'accoglienza, grazie alla dottoressa Franca Bandera, grazie al dottor Guerrieri, al dottor Bocchia a rappresentare il mondo della scuola, grazie alle istituzioni, grazie alle forze dell'ordine. Volevo approfittare per ricordare anche un grande finanziere che era Armando Parete, sopravvissuto alla Shoah, quindi a lui anche il nostro ricordo. E grazie al Premio Nazionale Paolo Borsellino, all'Associazione Nazionale Magistrati, al Comune dell'Aquila per questo percorso che faremo insieme alla cittadinanza e a tutti gli studenti aquilani. E concludo con ancora un pensiero di Primo Levi. Quando vennero per gli ebrei e i neri, distolsi gli occhi. Quando vennero per gli scrittori e i pensatori e i radicali e i dimostranti, distolsi gli occhi. Quando vennero per gli omosessuali, per le minoranze, gli utopisti, i ballerini, distolsi gli occhi. E poi, quando vennero per me, mi voltai e mi guardai intorno. Non era rimasto più nessuno. E ancora con Sami Modiano, perché ragazzi voi dovete cogliere il testimone che queste figure ci lasciano. Non dimenticate quello che è stato. Noi sopravvissuti abbiamo raccontato e continueremo a parlare finché avremo forza. Voi dovrete farlo quando non ci saremo più. Quindi cogliete l'importanza di questa giornata non come una giornata di lezione persa. Solo se sarà così, la giornata della memoria avrà un senso. Grazie.